Buongiorno a tutti. Sicuramente mi riconosco, il Teatro Comunale si riconosce in un discorso di servizio alla città. Il Comune è stato molto vicino al teatro in questi anni e noi eravamo sempre rimasti un po' in seconda linea rispetto alle varie evoluzioni di Piazza Verde degli ultimi anni, ma perché avevamo un'attività nostra, facevamo gli spettacoli, programmazione già in essere. Quest'anno è tutto in divenire. Quindi l'idea è di far diventare, diciamo così, un po' la Piazza Verdi, un po' il grande foyer del teatro, dove potremmo, evidentemente, controllando gli accessi, gestendo l'ordine pubblico, questo sarà uno dei problemi sicuramente, ma che sono sicuro sarà gestibile con tutti i soggetti coinvolti che lavoreranno nella stessa direzione. Quindi pensare anche, evidentemente, un accesso contingentato, il dentro e il fuori vorrei che diventassero un po' la stessa cosa. Io penso un teatro con nuovo portico ristrutturato, avremo tutti dei monitor che rappresentano esternamente cosa avviene all'esterno, e quindi un dentro e un fuori che si permea. Poi purtroppo i numeri ad oggi sappiamo che sono molto limitati sia per il dentro che per il fuori. Speriamo in evoluzioni positive, ma intanto per adesso stiamo coi piedi per terra alle condizioni date, per cui un po' di gente dentro, un po' di gente fuori, non un palco, non un palco, non una seduta del pubblico come se guardassero come in Piazza Maggiore il cinema, perché non è l'idea di Piazza Verdi, ma gente che sta in un'atmosfera, diciamo così, in qualche maniera conviviale, in attesa di entrare in teatro se ci sono le condizioni, oppure resta fuori, musica diffusa, piccoli spettacoli sotto il portico che rinasce ed è un simbolo anche di ripresa delle attività e della vita dopo un anno maledetto come quello che ci stiamo lasciando cronologicamente alle spalle, e avremo ancora tanti mesi difficili da vivere insieme. Quindi una testimonianza di presenza, di partecipazione, di volontà di ripresa e di riprospettive che ci porteranno in un tempo che non sarà breve, l'abbiamo presente tutti questo, a un certo tipo di normalità, la nuova normalità che scopriremo tra qualche mese, in quali ambiti e in quali dimensioni potrebbe esserci, però una ripresa e un teatro aperto. Quei giorni in cui non ci sarà più di qualche giorno, non faremo spettacoli, ci saranno incontri, conferenze, workshops, ospitalità anche di generi diversi. Non penso a un'estate fatta solo di musica classica, naturalmente, quindi anche ospitalità di gruppi, contaminazioni, i nostri giovani dell'Accademia, ma in ogni caso un teatro aperto, perché uno viene in Piazza Verdi, si siede in un'atmosfera più o meno conviviale e entra in un teatro, ascolta uno spettacolo, vede uno scrigno meraviglioso del Settecento, che forse ancora molti bolognesi conoscono poco, e partecipa a un percorso di rinascita. Quindi, come diceva l'assessore, la prospettiva è per un futuro migliore, aiutando tutti insieme a dare delle possibilità di convivenza. Ci relazioneremo con i comitati, ci relazioneremo sicuramente con gli operatori commerciali che affacciano sulla zona, ognuno farà un pezzo del proprio percorso. E noi vorremmo pensare esattamente a Piazza Verdi come un grande anticamera, una grande foyer del teatro dove la gente sta bene e riscopre il piacere di andare a teatro anche dopo un anno di patimenti assoluti. Salve, anch'io mi unisco alle parole di Fulvio Manciardi, cioè mi riconosco molto in questo progetto in cui il Comune di Bologna crede nella cultura come motore di socialità, e in questo caso motore anche di un riavvio. E mi piace molto quest'idea delle istituzioni che escono di sé, escono dai loro luoghi e offrono la loro capacità organizzativa, ideativa, creativa al pubblico in spazi che non sono loro tradizionalmente, ma che diventano spazi completamente dati alla cultura. Come Cineteca stiamo lavorando a un programma che sia all'altezza di quelli precedenti, cioè dell'esperienza ultra ventennale che abbiamo delle iniziative in Piazza Maggiore, lavorando anche su un'ipotesi di un ulteriore schermo, come è stato quello dell'anno scorso, e ci sono ancora molte incognite rispetto alla riapertura, delle sale, anche alla riapertura delle arene, ma insomma noi contiamo di partire con la programmazione in Piazza Maggiore il 21 di giugno. Probabilmente prima delle proiezioni in Piazza Maggiore sarà già teatro di diversi eventi, probabilmente già dalla prima parte di giugno. Poi, ecco, la grande incognita per noi quest'anno sono le date del Cinema Ritrovato. Le date che abbiamo annunciato sono quelle tradizionali, quindi 26 giugno, 4 di luglio. Però al momento il Festival di Cannes, che normalmente a maggio si è spostato al 6 di luglio, cosa che se fosse confermata naturalmente ci imporrebbe di spostarci più avanti nel corso dell'estate. Quindi diciamo, siamo certi di partire il 21 di giugno, non siamo ancora certi delle date del Cinema Ritrovato e anche di quando chiuderemo le proiezioni in piazza, perché qualora il Festival di Cannes rimanga lì noi ci dovremo spostare, quindi probabilmente andremo a fine agosto, come abbiamo fatto l'anno passato, cioè immediatamente prima di Venezia. Altrimenti, qualora invece potremmo fare il festival tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, le date sarebbero quelle tradizionali e quindi faremo l'ultima proiezione in piazza il 14 di agosto. Sì, grazie, buongiorno. Come Fondazione ERT, noi siamo come DNA, ci definiamo un teatro aperto e quindi proiettarsi oltre l'ambito delle nostre sale e sedi in una proiezione di rapporto e di incontro con la città, con i cittadini, con le persone è quanto di più stimolante. E ancora di più se pensiamo al luogo su cui siamo stati chiamati a misurarci e a sviluppare la nostra attività, che è uno di quelli più suggestivi e credo anche amati nella città. Noi prevediamo da metà giugno, ma si sta ragionando anche di poter anticipare, adesso sono cose che sono in fase di definizione, fino a metà agosto, quindi per un arco temporale di 2 mesi e qualcosa di più, 3 sere alla settimana. Saranno 3 sere in cui una serata è programmazione di ERT e di spettacoli prodotti o in ospitalità da parte di ERT, e poi nelle altre 2 serate ogni settimana si avvicenderanno alcuni protagonisti delle realtà culturali della città, quelli che stanno partecipando o continueranno a partecipare al bando promosso dal comune, e la terza sera sarà una sera dedicata e da definire di concerto con la presenza del quartiere, dedicata a realtà e vivacità presenti nel tessuto dell'ambito territoriale di pertinenza. Queste attività fanno riferimento tutte a ERT come soggetto di organizzazione e gestione e naturalmente saranno poi affinate e precisate nei dettagli di programmazione anche in ragione poi della concertazione che dovrà avvenire con le altre realtà che citavo, oltre che alle scelte artistiche proprie della nostra programmazione. Volevo anche spendere una parola per dire che stiamo decidendo naturalmente in stretto raccordo con gli uffici del Comune, anche una modalità che sia funzionale ma di poco impatto nel rapporto con gli spazi che andiamo a impegnare, in modo da creare le migliori condizioni, diciamo, di armonizzazione e di compresenza con le esigenze dei residenti, con le attività che si affacciano sulla piazza e anche con la presenza della Basilica che dobbiamo naturalmente e ovviamente considerare. Credo che ci saranno le condizioni per fare una bella cosa, che sia all'altezza del luogo e delle aspettative dei cittadini bolognesi e davvero incrociamo le dita, siamo confidenti e magari che alla fine dell'esperienza si possa trarre una valutazione, insieme come per le altre esperienze, molto positiva della presenza e dell'attività in questo luogo.